Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Se avete voglia di concedervi un libro divertente, un libro rilassante, insomma un libro di grande ironia, vi consiglio Quando meno te lo aspetti di Chiara Moscardelli, pubblicato da Giunti. Diciamolo subito, la protagonista è barese, ma non l'ho scelto per questo, insomma, perché ogni tanto gli ascoltatori mi scrivono ma lei è di origine barese, allora parla spesso dei libri ambientati a Bari. No, è veramente assolutamente un caso. La protagonista appunto è Penelope Stregatti, questa 36enne originaria di Bari ma che vive a Milano ormai da tanto tempo, plurilaureata, parla, conosce 5 lingue, però insomma, come spesso succede purtroppo, finisce per fare un lavoro al di sotto, diciamo, delle sue capacità. Chiara Moscardelli, allora, questa Penelope Stregatti, perché l'hai creata originaria di Bari? Così ci togliamo subito questo dubbio. Via il dente, via il dolore. Esatto. Allora, Penelope Stregatti, mi è venuto in mente di farla barese perché quando ero a prendere un aperitivo milanese con un mio amico di Bari e mi lamentavo di Milano e del fatto che non ci sono, insomma, è difficile conoscere qualcuno, che non c'è un uomo, che sono single e tutte le varie cose, lui mi ha detto: Moscardelli, tu saresti dovuta nascere a Bari. Ho detto: perché a Bari? Ho detto: perché a Bari c'è San Nicola. E ho detto: chi è San Nicola? Ho detto: vabbè, San Nicola è il protettore delle zitelle. Delle donne da marito. Delle donne da marito. Esatto, delle donne da marito. E allora mi sono detta: no, vabbè, allora sì, io non sono nata a Bari e non sono di Bari, perché sono di Roma, come si può ben sentire e ascoltare. Però ho detto: la mia protagonista deve essere assolutamente barese, perché deve avere questo santo, perché innanzitutto la mia protagonista è zitella. È da maritare. È la classica donna, diciamo, oltre i 30 anni, molto indipendente, preparata, appunto, che potrebbe fare un lavoro al di sopra di quello che effettivamente svolge, e però è un po' sfigata in amore, un po' come era la protagonista dei tuoi due precedenti romanzi, Voleva essere una gatta morta e La vita non è un film, ma a volte ci somiglia. In quel caso la protagonista era proprio Chiara Moscardelli, insomma, avevi preso il tuo nome te stessa, ti eri tuffata tu stessa nel romanzo. Esattamente. Qui io ho voluto dare una possibilità in più a me stessa, nel senso che se in Volevo essere una gatta morta, Nella vita non è un film, ma a volte ci somiglia, ci tengo al sottotitolo, Chiara Moscardelli personaggio non se la passa troppo bene, mentre mi sono detta: voglio creare un personaggio diverso, ma neanche tanto, a cui voglio dare una possibilità, perché allora che cosa si scrive a fare? È fiction, e quindi voglio dire, Penelope Stregatti deve avere delle possibilità in più rispetto a Chiara Moscardelli, e quindi ho creato Penelope Stregatti. Insomma, delle possibilità in più ce le ha, perché, come succede in questo caso nei film, mi verrebbe da dire, oppure nei romanzi, un giorno Penelope Stregatti investe con la sua bicicletta l'uomo della sua vita, possiamo dire così? Sì, diciamolo, perché è proprio l'uomo della sua vita. Però c'è anche un mistero legato a quest'uomo, insomma, lei lo investe, se ne innamora quasi colpo di fulmine, poi non lo vede per un po', poi lo vede come dirigente, come consulente dell'azienda dove lei lavora. Diciamo in che azienda lavora? Vogliamo proprio dirlo? Ma diciamolo, via. Allora, Penelope Stregatti lavora alla Pimpax S.P.A., che è un'azienda, una multinazionale che fabbrica assorbenti. Quando lei investe questo uomo che si presenta come Alberto Ristori, lei perde la testa, perché Penelope Stregatti, una delle sue grandi passioni è il Conte Ristori di Elisa di Rivombrosa. Ma va, una ragazza che vive di fiction, esatto, televisive, esatto, di romanticismo. E d'altra parte non ha una vita, quindi vive quella di qualcun altro. Quindi quando questo tizio che lei investe, a cui rompe una gamba peraltro, dice di chiamarsi Alberto Ristori, Penelope perde completamente la testa, salvo poi questo Alberto Ristori scompare per una serie di ragioni all'ospedale, perde di vista, e un mese dopo, come dicevi giustamente tu prima, si presenta alla Pimpax S.P.A. questo consulente, cioè sono quei classici, non so se hai visto o se avete visto Tra le nuvole, il film con con George Clooney. Esatto, lui è un tagliatore di teste, invece del cacciatore, il tagliatore di teste. Perché la Pimpax S.P.A. non solo è un'azienda di assorbenti, ma non se la passa neanche tanto bene, e quindi preceduto da tutta una serie di pettegolezzi, arriva questo tagliatore di teste che secondo Penelope Stregatti è Alberto Ristori, lui, ma dice, lui di dice di non esserlo, lui si presenta come Riccardo Galanti. Insomma, ci hai infilato una punta di giallo anche in questo romanzo, come avevi già fatto, anche se lì era veramente più, più spaventevole, sì, diciamo così, in La vita non è un film. E come nella vita non è un film, ma a volte ci somiglia, ci sono molti riferimenti cinematografici, insomma anche Penelope Stregatti fa riferimento a film, attori, eccetera, perché un po' questa è, come dire, la cifra di Chiara Moscardelli. Sì, sì, sì, esattamente. Diciamo che se Penelope Stregatti compila questa famosa lista dei desideri, che sono 15, quando aveva 16 anni, e poi quando è arrivata alle soglie dei 40 non ne ha realizzato neanche uno, quello di Chiara Moscardelli, in realtà di desiderio, sarebbe quello di riuscire a scrivere una commedia alla caccia al ladro di Hitchcock, dove il rosa si mescola esatto, al giallo. Quello è il sogno di Chiara Moscardelli. Ecco, non ti hanno mai fatto proposte di cinematografiche sui tuoi romanzi? Sì, Volevo essere una gatta morta, sì, è stato opzionato per svariato tempo, poi, come spesso succede, purtroppo le opzioni scadono non è stato realizzato. Questo, Dio mio, io incrocio le dita, nel senso che vabbè, è uscito da pochissimo, sì, facciamo quindi un appello, allora, facciamo per un tutti appello. I produttori cinematografici. Esatto. Ci sono tutta una serie di personaggi che girano intorno a Penelope Stregatti, alla sua vita amorosa sfigata ma piena di speranza. Uno dei personaggi che mi è piaciuto di più è l'amico Federico, perché l'amico Federico la riporta sempre un po' con i piedi per terra, ma soprattutto è sferzante, usa quest'ironia pungente quando lei magari si fa i film in testa. Sì, sì, sì. Federico, diciamo che come nei miei libri precedenti, io prendo moltissimo dalla realtà, e quindi se Volevo essere una gatta morta e Nella vita non un film c'erano i miei amici di Roma, purtroppo essendomi io trasferita a Milano ho dovuto sfruttare quello che conoscevo, e quindi Federico è realmente Federico, mio amico. C'è un Federico. C'è un allora. Federico, ed è esatto che lui ne dica, perché dice che non gli somiglia per niente, e c'è da dire che invece lui è esattamente così. E sì, e lui riporta Penelope alla realtà con queste battute ciniche, è più aderente alla realtà rispetto a Penelope, più realista se vogliamo, ed è quello che fa Federico a me tutti i giorni. quindi ma diciamo, sono contenti i tuoi amici di ritrovarsi poi nei tuoi romanzi? Ma guarda, loro alla fine secondo me sì, infatti i miei amici di Roma si sono un po' seccati alla fine che invece non appaiono in questo libro, è ambientato appunto per la maggior parte a Milano, e quindi da che si lamentavano ma non siamo così, non è vero, eccetera. Adesso si lamentano adesso perché non ci sono. Esatto. Il romanzo è ambientato a Milano, ma c'è anche un viaggio a Parigi molto importante, perché appunto Penelope Stregatti accompagnerà questo tagliatore di testi a Parigi, insomma, per un viaggio di lavoro, di affari. Senza svelare troppo della trama, come questo viaggio cambierà un po' la vita di Penelope? La cambia proprio, nel senso che innanzitutto uno dei desideri di Penelope era quello di viaggiare girare il mondo, e lei non, in realtà, a parte Milano Bari, Bari Milano, non è mai uscita all'Italia. Perché? Perché lei è piena di paure. La mancata realizzazione, diciamo, dei primi tre desideri, che sono, come la maggior parte di noi donne purtroppo, innamorarsi, trovare l'uomo giusto, sposarsi, eccetera, ha bloccato la realizzazione di tutti gli altri. Perché ahimè c'è da dire, noi donne, se non troviamo un compagno, se non diventiamo madri, eccetera, ci sentiamo incomplete per certi versi. Lei, tra l'altro, Penelope Stregatti si rifà a quello che dice la nonna, cioè esatto, che dice che la metà della mela è una metà appunto incompleta. È una metà incompleta, quindi Penelope si sente una metà mela, perché dice, quando meno te lo aspetti vedrai che prima o poi, le dice la nonna, incontrerai la tua metà della mela, e quindi Penelope per tutta la vita si è sentita a metà. Quando Riccardo Galanti, che lei pensa essere Alberto Ristori, si renderà conto che lei ha molte più qualità rispetto a quelle che lei dimostra sul lavoro, deciderà di portarla a Parigi, perché tra le varie lingue che Penelope parla c'è anche il cinese. E l'azienda deve essere venduta a dei cinesi. Penelope non solo realizzerà quasi tutti i suoi desideri in uno, nel senso che vola a Parigi con accanto quello che lei ritiene un gran figo, esatto, l'uomo della sua vita, in più avrà il coraggio a Parigi, nonostante sia lì da sola, nonostante sia in una città che non conosce, avrà il coraggio di di pedinare nella notte Riccardo Galanti per scoprire delle cose, perché esatto. Qui si tinge ancora più di giallo il romanzo. Adesso guardavo l'interno della copertina del tuo romanzo, fra i vari desideri la famosa lista dei 15, alla fine hai messo la pace nel mondo come Miss Mondo. Beh, certo, come Miss Italia, come Miss Italia, esatto. La pace nel mondo. Esatto, ma infatti è la quindicesima, ecco, cioè, tu le prendi anche un po' in giro. Ma insomma, sì, ma Penelope non gliene frega niente, si può dire della pace del mondo, infatti è quindicesima, però l'ha dovuta mettere perché è politicamente corretto mettere la pace nel mondo. E quindi tu sei una scrittrice, una persona molto molto ironica, insomma lo si capisce da come racconti, da come scrivi i tuoi romanzi. Questa ironia, sai, spesso si dice che è una forma di difesa, no, nei confronti del mondo, oppure è una lente per guardare il mondo. Nel tuo caso che cos'è l'ironia? È una bella domanda questa, nel senso che sono verissime entrambe le cose. L'ironia sicuramente ti mette come si può dire, ti protegge dal resto del mondo, ma nello stesso tempo te lo fa guardare anche in maniera differente, cioè un po' entrambe le cose. C'è da dire che io la uso più purtroppo come prima come prima opzione e come difesa. Come difesa, perché l'ironia ovviamente allontana. Una donna troppo ironica agli uomini solitamente disturba. Sì. Per la famoso criterio della gatta morta, nel senso che all'uomo ritorniamo piace al primo romanzo. Esatto, perché all'uomo piace la gatta morta. La gatta morta di sicuro non è ironica. Mentre è vero anche che, però, una persona ironica, uomo o donna che sia, grazie all'ironia prende la giusta distanza con le cose, anche quelle più brutte. E quindi farti guardare una cosa che tu stai vivendo, anche non bella, attraverso la lente dell'ironia, indubbiamente te la fa vivere in maniera differente. No, io posso confermarvi che questo Quando meno te l'aspetti è sicuramente un romanzo divertente, ironico, insomma piacevole, e ogni volta che io parlo con Chiara Moscardelli, non so perché, appena la vedo mi viene da ridere. Ecco. Allora, se avete l'opportunità anche di vedere le sue presentazioni dei libri in tour, insomma nelle varie librerie d'Italia, vi prego andatela a vedere, perché vi assicuro che passate un'ora e mezza di spasso totale. Grazie Chiara Moscardelli, ora in libreria con Quando meno te l'aspetti, speriamo che qualcosa succeda sì. Quando meno te l'aspetti, pubblicato da Giunti. Ora facciamo una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. E ora un libro che vi consiglio veramente di non perdere. È un libro di racconti. Non storcete il naso, so che a molti non piacciono i racconti, ma veramente dovete fare un'eccezione. L'ha scritto uno degli scrittori israeliani di nuova generazione più bravi. Lui è Edgar Keret. Il libro si intitola 7 anni di felicità, pubblicato da Feltrinelli. È il primo libro autobiografico per Keret. I 7 anni di felicità sono quelli che passano dalla nascita del figlio Lev alla malattia e poi alla morte del padre. Sono una serie di racconti veramente con un'ironia fulminante. Sono racconti proprio della vita personale di Keret, traduzione italiana di Vincenzo Mantovani, non lo dimentichiamo. Tutto, dicevamo, viene raccontato con grande ironia. Il figlio, per esempio, nasce a Tel Aviv durante un attacco terroristico e c'è un giornalista che chiede a Keret, che si trova in quel momento in ospedale, commenti sulla matrice di quell'attentato. Lui in realtà è lì solo perché sta aspettando appunto la nascita del figlio. Poi c'è l'incubo dell'allora presidente iraniano Ahmadinejad e così via. Insomma, la cosa che emerge da questo libro di racconti, che poi sono tutti uniti, diciamo così, e l'ironia tagliente. Spesso si dice che esiste un umorismo ebraico, e allora abbiamo chiesto a Keret se effettivamente il suo stile rientra nel filone dell'umorismo ebraico, oppure lui ha una sua via, ha un suo stile ironico personale. Sentiamolo. No, I think that I very much connect to the tradition of Jewish humor. Sono molto legato alla tradizione dell'umorismo ebraico e, a differenza di altre forme di umorismo, dove si opera sempre una sorta di alienazione nei confronti di chi ne è oggetto, a cui tra l'altro ci si rivolge con arroganza, l'umorismo ebraico porta sempre un sentimento di affetto, riguarda le cose più importanti che hai o a cui tieni maggiormente. C'è dello humor in questo libro che parla di mio padre, di mia madre, della mia famiglia, ed è una cosa proprio da ebrei prendere in giro i familiari. Mio padre un giorno mi disse: ho letto tutte le tue storie che riguardano i padri, e in metà di queste si tratta di padri stupidi, mentre nell'altra metà sono morti. Ma in tutte ho sentito che mi vuoi bene, e questa è una cosa molto ebrea. And I think that this is something that is very, very Jewish. Infatti, in questo libro, Sette anni di felicità, c'è dichiaratamente molto di lei. Tutti gli scrittori mettono qualcosa di autobiografico nei libri, ma qui il protagonista è proprio lei come scrittore, la sua vita, la sua famiglia, le cose che ha fatto. Perché ha deciso di mettersi così tanto in gioco? I think that in the 20 years of my 21st years of my writing career, I did anything I could to avoid writing non-fiction. Nei primi 21 anni di carriera come scrittore, ho fatto di tutto per evitare di scrivere storie autobiografiche. Nella mia vita la scrittura è sempre stata un luogo dove lasciare libera l'immaginazione e poter scrivere storie soprattutto per me stesso. Secondo me, scrivere storie biografiche è meno magico, perché c'è una bella differenza tra il raccontare cose completamente nuove e il raccontare storie su cose effettivamente accadute. Ma dopo la nascita di mio figlio mi sono reso conto che volevo non solo scrivere di cose che mi erano successe per ricordarmele, ma per analizzare i miei sentimenti verso queste vicende. And when my father became ill, it became clear to me that I want to publish a book. Quando mio padre si ammalò, per me fu subito chiaro che volevo pubblicare un libro per lasciare una testimonianza della sua vita e condividere col mondo, dal momento che di lì a poco mio padre sarebbe morto, che genitore fantastico ho avuto. And to share with the world what a wonderful father I had and what a wonderful family I have. Un'altra cosa che emerge da questo libro è che tutti i personaggi che lei descrive appunto con questa ironia tagliente hanno un modo di vivere e di pensare che è fortemente influenzato dal fatto di vivere in Israele, quindi in un posto minacciato proprio fisicamente. In che modo, secondo lei, vivere in Israele condiziona proprio il modo di pensare degli israeliani? Well, you know, I think that the effect of the situation is very, very strong, very, very powerful. You know, my best friend, who's often mentioned in the book, is named Uzi. L'effetto di questa situazione è davvero forte. Il mio miglior amico, che spesso viene nominato nel libro, si chiama Uzi. Proprio come l'arma da fuoco. Sa, non so quanti al mondo si chiamino come un fucile, ma in Israele è una cosa comune, perché è stata la prima arma inventata nel paese e quindi è una questione di orgoglio nazionale. Questa cosa di vivere in un posto che per il 90% del tempo è pacifico, ma che ha comunque nell'aria questa atmosfera di guerra, penso sia una cosa che condizioni le persone. Always feel when I come to Italy, especially to the southern part of Italy, that this is the way that Israel could have been. Quando vengo in Italia, soprattutto nel sud, mi sento nel posto che Israele sarebbe potuto diventare. Dico sempre che l'Italia è come Israele, solo che voi cucinate meglio e non uccidete le persone. Nascendo e crescendo in Israele, non mi rendevo conto di quanto fosse estrema la realtà in cui vivevo. Ma dopo essere diventato padre, con un figlio di 9 anni che ha già vissuto 2 guerre e si è trovato in situazioni di estremo pericolo con lanci di missili per strada, eccetera, a un certo punto dici: questa non è una cosa normale. Noi non dovremmo vivere così, né in Israele né in Palestina. E la cosa frustrante non è che i tentativi per fermare tutto questo siano fallimentari, ma che non ci sia nessuno che cerca davvero di porre fine a tutto. We have a prime minister who thinks that having a war every 2 years, like some kind of a biennale, is the only way that life can be lived in the Middle East. Noi abbiamo un primo ministro che pensa che andare in guerra ogni 2 anni sia l'unico modo per sopravvivere in Medio Oriente. Io sarei felice se ci fossero dei tentativi, anche se fallimentari, e non darei la colpa a nessuno se solo si provasse davvero a migliorare le cose. Ma quello che vedo è una leadership che neanche si sforza di provarci. Support a leadership that doesn't even try. Tornando al libro, strettamente al libro, Ci sono un paio di riferimenti al senso del tempo. In una conversazione con sua moglie, se non ricordo male, sua moglie dice che insomma non bisogna perdere tempo con chi fa delle telefonate per proporre dei prodotti, eccetera, perché si vive in un posto dove il tempo è fondamentale, tempo da vivere potenzialmente ce ne può essere poco. E poi c'è il momento in cui lei parla di quando è in aereo, di quando è in volo, che quello è un tempo diverso rispetto a tutto il resto. Che rapporto ha lei con il tempo? Well, I think, you know, as somebody who has many yearnings and fantasies and dreams, I many times see time as my enemy. Io mi vedo come uno che sogna, ha tante fantasie, viaggia con la mente e spesso considero il tempo come un nemico. È così limitato e scorre così velocemente. A volte mi ci sento proprio in lotta, mentre altre lo vedo come il mio miglior amico, perché senza tempo non ci sarebbe cambiamento e il cambiamento è ciò che porta vividezza e significato alla nostra vita. Mi sento come un bambino a Luna Park che guarda sempre l'orologio, perché ci sono così tante giostre da provare e sa che in poche ore il parco giochi chiuderà. Potrei sentirmi triste, ma sarebbe per un buon motivo. La vita finora è stata un'esperienza davvero piena di significato per me. I may feel sad, but for good reason, you know, the life so far had been a very fulfilling adventure for me. Un'ultima domanda, così per chiudere anche con una certa ironia, col sorriso che insomma in parte caratterizza il suo romanzo, anche se il suo romanzo insomma a volte ha un sorriso amaro. Lei racconta di quando incontra nella settimana del libro ebraico, prima la frequentava da lettore, adesso la frequenta da scrittore, e quando le chiedono di fare una dedica sul libro, giustamente pensa: io non lo conosco, non saprei cosa scrivere, e quindi ha scritto per un periodo delle dediche assolutamente assurde, false. Che dedica farebbe adesso qui sulla mia copia del libro? Che falsità direbbe? E tu, Alessandra? Ad Alessandra, people, il popolo ebreo ed il Mossad israeliano ti ringraziano per il tuo contributo e il tuo coraggio. Edgar. E questo era Edgar Cheretto, ora in libreria con 7 anni di felicità, pubblicato da Feltrinelli. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate sempre tutto su podcast, sia il Cacciatore di Libri che va alle 6.30 e alle 22 del sabato, sia Romanzi in Valigia che va invece in onda alle 17 della domenica. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.